libro uscito qualche anno fa in edizione americana, perché l'autrice è comunque un'americana, quindi scritto in inglese. E poi come prima traduzione in spagnolo circa due anni fa è uscito in Spagna, e questa è la prima edizione in italiano. L'autrice è americana, dicevo, appartiene al movimento femminista storico anni 60-70 americano, è una docente dove insegna all'Università dell'Indiana, e si è interessata spesso, non solo in questa occasione, del movimento delle donne anarchiche e libertarie che ha avuto nella Spagna repubblicana e rivoluzionaria del 36, ma non solo, anche prima. Diciamo l'apice della sua espressione. Quindi lei parte facendo un vasto giro di ricognizione delle superstiti di quella esperienza a cavallo degli anni 30, che all'epoca in cui lei gira per la Spagna, quindi mi sembra verso la metà degli anni 90, sono veramente poche, e quelle poche che ancora sono sopravvissute sono molto vecchie. Nel frattempo hanno avuto esperienze di vita e politiche le più diverse e disparate, ma che ancora ricordano quegli anni come degli anni indimenticabili, come una formazione politica, umana, ideologica imprescindibile dal loro essere. E in realtà penso che bisogna, per capire appieno la portata non solo dell'esperienza di Mujeres Libres, ma del contesto in cui si inseriva, che era proprio la rivoluzione spagnola, bisognava esserci, perché raccontarlo in realtà, specialmente da chi non l'ha vissuto, sicuramente è limitativo e poco partecipato, insomma. Comunque, niente, lei fa un giro per parecchi mesi in Spagna, e non solo in Spagna, andando a recuperare le donne che ai tempi avevano partecipato al gruppo Mujeres Libres. Alcune vivono attualmente in Inghilterra, in Francia, sono sperse, eccetera, sono nonne, bisnonne, eccetera, e facendosi raccontare quella che è stata l'esperienza di Mujeres Libres, certamente non avulsa appunto dal contesto di quello che è stato questo grande movimento di emancipazione generale che si legava alla FAI, alla CNT. Mujeres Libres è un gruppo di donne che ufficialmente si istituisce a Madrid nel 36, nel maggio del 36, quindi pochi mesi prima dello scoppio della rivoluzione, che è scoppiata a causa di un colpo di Stato portato avanti dal generale Franco e dai suoi accoliti per contrastare la Repubblica Democratica Spagnola. Non a caso nasce qualche mese prima e non estemporaneamente. La presa di coscienza delle donne all'interno del movimento libertario anarchico spagnolo già era datata parecchi anni. l'anarchismo in Spagna non è un'esperienza legata esclusivamente al periodo rivoluzionario della guerra civile. È un'esperienza che risale ai primi del secolo, da quando fu introdotto, diciamo, partendo dall'Italia, da un emissario, tra virgolette, di Bakunin, il concetto appunto di collettivismo anarchico che nacque dalla Prima Internazionale e che da allora si sviluppò proprio nelle aree mediterranee, Italia, Spagna. In Spagna ebbe un grosso seguito. Non solo nelle tradizionali aree industriali, che erano la Catalogna, le zone basche, la zona di Madrid, eccetera, ma anche nelle aree più povere, rurali, l'Andalusia, le aree del sud, dove l'allora nascente, imperante in Europa e non solo, comunismo dell'internazionale marxista aveva poco terreno fertile, perché poco si adattava a quelle che erano le esigenze di un proletariato rurale completamente illetterato e assolutamente al di fuori delle dinamiche di lotte di classe organizzate e sindacalizzate a cui si riferiva la lotta marxista comunista di quell'epoca. Il concetto bakuniniano, anarchico, collettivista, riprende invece quelle che sono le esigenze più immediate e più pure della popolazione rurale assoggettata a secoli di schiavitù da parte dei latifondisti, della Chiesa, del potere centrale, e recupera la grossa potenzialità di organizzazione collettiva e di rivendicazione collettiva di desideri primari e di bisogni primari, il cibo, la terra, i mezzi di produzione, sviluppando proprio una capacità di coesione all'interno di un tessuto altrimenti completamente succube, secondo principi libertari anarchici. Quindi secondo il principio dell'assemblearità, dell'assenza di delega, dell'assenza di potere, di gerarchie, dell'egualitarismo e del a ciascuno secondo le proprie necessità e da ciascuno secondo le proprie capacità. È per questo che in Spagna noi assistiamo a una grossa adesione ai concetti libertari anarchici da parte non solo quindi del proletariato urbano, organizzato nelle confederazioni sindacali, di cui già dagli anni 20 la CNT, ovvero il sindacato anarchico, è il primo esponente in assoluto, con molti più iscritti rispetto a qualsiasi altro sindacato di stampo marxista, e riesce a organizzare anche buona parte del proletariato rurale dei piccoli centri. La CNT come organizzazione sindacale poi è uno degli aspetti del movimento anarchico più generalizzato, che fa riferimento comunque alla FAI, alla Federazione Anarchica Iberica, che comprende al suo interno non solo organizzazioni sindacali vere e proprie, quindi presenti nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, eccetera, ma riesce a organizzare, specialmente nei centri urbani, dei momenti di coinvolgimento e di captación, per dirla alla spagnola, innanzitutto dei giovani, attraverso la FIGIL, che era una compagine della FAI, e si rivolgeva proprio all'organizzazione politica e sociale dei giovani, dando a loro degli strumenti e delle possibilità di espressione e di rivendicazione di diritti. Gli Atenei Libertari sono una delle più grosse esperienze di quell'epoca, che nascono proprio all'interno della FIGIL, della FAI, e sono luoghi di compartecipazione di attività le più varie, che vanno dalle attività artistiche alle attività di autoformazione culturale, alle attività esternazione comunque dei principi libertari e di diffusione delle idee anarchiche all'interno della società e dei luoghi di lavoro, organizzato secondo gruppi di interesse e affinità, il tutto con basi libertarie accettate. Ovvio che all'interno di queste esperienze, gli Atenei Libertari, la FIGIL in primis, le donne avevano non dico un ruolo, ma avevano comunque una posizione molto particolare. Ricordiamoci che negli anni 20 le donne in Spagna potevano grosso modo dividersi in due categorie: le donne che lavoravano in casa, il che non vuol dire che erano casalinghe, si occupavano solo della famiglia, ma il più delle volte lavoravano per padroni esterni, soprattutto nel ramo tessile, quindi cucivano, ricamavano, eccetera, lavoravano anche 10, 12, 15 ore al giorno in casa. Al di fuori quindi di strutture organizzative sindacali, e soggette al con chiaramente paghe da fame e soggette a ricatti di tutti i tipi, oltre ad avere su di sé l'impegno della famiglia, i figli, il marito, i vecchi, eccetera eccetera. L'altra categoria, anche se non distinta ma comunque presente, era invece le donne che andavano in fabbrica a lavorare, che erano, specialmente in certi rami, tra cui quello tessile, che specialmente in Catalogna era molto sviluppato, erano la stragrande maggioranza. Nelle fabbriche tessili il 70-80% della manodopera era femminile. E quindi l'attività della CNT all'interno di queste realtà produttive aveva inevitabilmente come interlocutore le donne. Donne che, attratte comunque dall'idea anarchica e libertaria di parità di diritti e doveri, di condizioni, di dignità, iniziarono a rivendicare proprio su queste basi una parità in tutti i sensi, e quindi non solo a livello sindacale, quindi a livello di parità di salario, di orario, di condizioni di lavoro, richieste sindacali come la maternità, che allora era inconcepibile stare a casa quando avevi fatto un figlio, e cose del genere, ma anche all'interno del movimento anarchico, quindi nel rapporto con i compagni anarchici, iniziavano ad assumere degli atteggiamenti diversi rispetto a quelli che i compagni anarchici erano abituati comunque dalle donne. E quindi a chiedere comunque la possibilità di avere voce in capitolo rispetto a delle scelte, rispetto alla possibilità di esprimere delle opinioni e di divulgare anche delle idee. Quindi iniziano quasi subito a formarsi dei gruppi di donne, e non perché l'idea che la lotta per l'emancipazione femminile debba necessariamente prevedere la formazione di gruppi esclusivamente femminili. Anzi, il coinvolgimento era sempre cercato, il coinvolgimento degli uomini rispetto a queste cose. E in realtà era una scelta obbligata il fatto di, e lo è diventato sempre più, cioè, o meglio, sempre più coscientemente le donne hanno scelto di portare avanti una lotta loro stesse, cioè senza fare riferimento e senza appoggiarsi agli uomini all'interno del movimento anarchico. Attenzione, questo atteggiamento però non deve essere visto come un atteggiamento separatista di un genere rispetto a un altro. Le donne che poi confluiscono in Mujeres Libres, perché queste sono esperienze antecedenti alla fondazione del gruppo Mujeres Libres, quindi sono piccoli gruppi all'interno degli Atenei Libertari, all'interno della FAI, eccetera, eccetera, che si organizzano su delle tematiche specifiche, che sono le tematiche femminili, quindi rivendicazioni sindacali all'interno di condizioni di lavoro prettamente femminili e rivendicazioni sociali di relazione all'interno di dinamiche personali, familiari, individuali. All'inizio, noi possiamo anche immaginarci che cosa poteva essere la cultura dominante della Spagna negli anni 10, negli anni 20 del 1900, e quindi non ci stupisce che anche l'atteggiamento di molti compagni anarchici fosse standardizzato rispetto al ruolo della donna su delle posizioni abbastanza reazionarie. E quindi sì, la donna finché svolge attività sindacale, quindi tira in mezzo altre donne nel tesseramento, nella CNT, finché scendono in piazza, come è successo nella settimana tragica, che la fecero in pratica le donne la settimana tragica, perché scesero in piazza e si appropriarono del carbone per il riscaldamento, del pane per mangiare e dei mezzi di sussistenza, finché fanno questo sono delle eroine. Nel momento in cui invece in casa dicono io mi sono rotto i coglioni di, ovviamente le cose non funzionano allo stesso modo. Quindi con l'andare degli anni le donne anarchiche che comunque non hanno mai smesso di fare riferimento né alla FAI come organizzazione politica né alla CNT come organizzazione sindacale, prendono sempre più coscienza che la lotta per l'emancipazione femminile può nascere solo e unicamente dalle donne. E quindi si organizzano in modo più coinvolgente rispetto alle donne, toccando tematiche più inerenti alla condizione femminile, sia della donna di città che di campagna, e arrivando a proporre e a mettere in pratica delle esperienze veramente uniche. Quindi già negli anni 20 e negli anni 30 le donne specialmente nelle grandi città, Barcellona, Madrid, eccetera, le donne della FAI portano avanti esperienze di autoformazione e istruzione di base per quella massa enorme di analfabeti che allora era il proletariato, totalmente analfabeti, quindi alfabetizzazione innanzitutto e corsi di apprendimento di tecniche di specializzazione, di approfondimento di tematiche anche sociali, politiche. Ricordiamoci che qualsiasi attività aveva sempre un riferimento politico, cioè non, nulla era avulso da quella che era la lotta, tutto faceva parte della lotta ed era visto in senso rivoluzionario. Quindi anche l'attività delle donne non era fine a se stessa, e difatti le donne, specialmente Mujeres Libres, dalla sua fondazione in poi, hanno sempre rifiutato di dichiararsi femministe, perché il concetto femminista, specie in quell'epoca e forse anche più avanti, ne avremmo avuto una conferma, era legato a un'attività finalizzata all'emancipazione di un genere rispetto all'altro, totalmente avulso da un qualsiasi contesto di lotta e di cambiamento radicale della situazione politica e sociale in cui era immerso. E non a caso faceva riferimento in gran parte a strati di popolazione medio borghesi, cioè le femministe, ma questo anche le femministe americane anni 70 eccetera, in gran parte comunque hanno un'estrazione borghese e al di là di certe cose non vanno, anzi quando si inizia a parlare di cambiamenti un po' più a larga scala, guai, cioè non è il loro campo. Ecco, l'atteggiamento di Mujeres Libres era totalmente differente. Loro erano immerse in pieno in quello che era la propaganda politica, il coinvolgimento attivo della gente, non solo nei corsi di alfabetizzazione, nelle varie attività anche sportive, artistiche che organizzavano, ma anche e soprattutto nella lotta politica, nella lotta sindacale, nella rivendicazione di diritti, nella lotta per un cambiamento totale del modo di essere, di pensare, di agire. Quindi l'esperienza di Mujeres Libres nasce comunque dall'esperienza di vari gruppi distinti di donne in giro per la Spagna, in particolare chiaramente nelle grosse aree urbane, che alla vigilia del colpo di Stato e quindi della rivoluzione si federano fondamentalmente, cioè nasce da Madrid l'idea di formare questo gruppo Mujeres Libres, quindi con un'identità chiara, che prima allora era prima di allora era la FAI, non era altro che la FAI o la FIJL. Invece darsi un'identità femminile forte, Mujeres Libres, a cui spontaneamente, cioè attraverso un meccanismo di lettere spedite a raffica a tutte le iscritte alla CNT, alla FAI di tutta la Spagna, ricevono adesioni a migliaia, quindi diventa una federazione di gruppi di donne con degli obiettivi chiari e precisi, cioè la emancipazione fondamentalmente dalle tre cause di sottomissione della donna, uno, l'ignoranza in cui la donna è sempre stata, quindi lo sforzo per rendere la donna, la Martha Achesberg usa empowerment come termine, cioè dare gli strumenti affinché, ma questo vale non solo per la donna, vale per tutti, affinché l'individuo possa prendere in mano la sua condizione ed essere l'artefice dei cambiamenti e della sua vita, il che vuol dire anche strumenti oggettivi, reali, che sono una cultura, una capacità di fare, una capacità di pensare autonomamente, di fare delle scelte, di essere fondamentalmente un individuo autonomo. E tanto più vale per le donne, valeva anche allora. Secondo, schiavitù, liberarsi da una schiavitù in quanto produttrice, in quanto operaia, in quanto appartenente a una classe comunque sfruttata, e libertà proprio come donna, come appartenente a un genere storicamente sottomesso. A questo fine organizzano, innanzitutto pubblicano una rivista a uscita mensile circa, che poi non è, ovviamente Mujeres Libres viene fondata nel maggio del 36, nel luglio del 36 scoppia la rivoluzione, quindi vi potete immaginare le 30.000 cose che un individuo doveva pensare e star dietro all'interno di una situazione del genere. Quindi con discontinuità varie comunque esce periodicamente una rivista, sono usciti circa una decina di numeri di Mujeres Libres, che parla oltre che di cultura e di politica generale, in particolare vista dagli occhi delle donne, e ha anche articoli che potremmo trovare giornale femminile normale, quindi la cura dei bambini piuttosto che dell'igiene, piuttosto che la sessualità, per dire rispetto alla sessualità, una delle cose che mi ha più stupito è che nella Spagna repubblicana degli anni 30 l'aborto era libero, era legalizzato. E questo non è un caso, è proprio dovuto a una serie di rivendicazioni da parte delle donne che ha portato a una scelta del genere. E comunque fa un'opera di diffusione attraverso la rivista non solo di propaganda anarchica, ma di coinvolgimento nella lotta delle donne, che produce degli effetti veramente incredibili, contando che da luglio in poi la Spagna si trova a fronteggiare proprio un periodo di guerra e quindi di impegno in qualsiasi campo, dal fronte, e molte donne vanno al fronte, anche se a detta della Achesberg, o meglio a detta delle donne che lei ha intervistato, questo succede solo nei primi mesi della guerra, dopodiché le donne verranno, diciamo, rispedite in retrovia a occuparsi di organizzare la distribuzione del cibo, del materiale, a occuparsi ad andare in fabbrica soprattutto al posto degli uomini che erano al fronte.